a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Nuovo appuntamento insieme a Regola d'Arte, bentrovati da Francesco Galante. Anche oggi parliamo proprio di argomenti interessanti, di più argomenti, con l'UPA, l'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Lo facciamo al telefono con noi la vicepresidente del sistema di categoria Officina Meccanica, Laura Rosa. Benvenuta. Grazie mille, buongiorno a tutti. Parliamo di una serie di attività e di cose che state preparando. Per esempio, Confartigianato Padova, insieme a UPA Formazione, promuove per le aziende delle officine meccaniche e autoriparazione una visita studio alla città di Friburgo. Sì, infatti abbiamo deciso di organizzare questa visita studio di 3 giorni a Friburgo, in quanto per noi, e penso insomma un po' per tutti, è una delle città che sono più all'avanguardia per l'uso di energie rinnovabili, sia proprio come cittadina sia anche come imprenditori. E avverrà dal 3 al 5 di marzo e parteciperanno varie aziende artigiane della provincia. È un progetto che fa parte di un percorso che stiamo seguendo, che si chiama percorso di imprese in rete, percorso in innovazione per il settore della meccanica e della meccatronica, che comprende moltissime iniziative, tra cui questa. E cosa andremo a vedere? Andremo a vedere soprattutto le realtà aziendali della metalmeccanica e approfondiremo le varie pratiche aziendali, soprattutto per quello che riguarda l'innovazione e l'ecoinnovazione. Dopodiché, essendo a Friburgo anche un altro progetto attivo, che è The Job of My Life, che riguarda i ragazzi padovani con delle imprese tedesche di scambio, formazione e lavoro, andremo praticamente a trovare i nostri ragazzi e le aziende in cui lavorano per vedere anche come funziona il loro sistema attuale tra scuola e lavoro, che è molto importante. E dopodiché l'ultimo giorno faremo una cosa un po' più tranquilla, quindi una visita ai vari quartieri di Friburgo, soprattutto quelli sostenibili, in quanto Friburgo è comunque una città molto tecnologica e che usa tutte praticamente le energie per avere un basso consumo, un basso impatto ambientale. E dopodiché, avendo fatto tutte queste visite, comunque saremo anche a cena con i rappresentanti della Camera dell'Artigianato di Friburgo, in modo comunque da avere una continua collaborazione, ecco. Ah, quindi una bellissima 3 giorni tutta dedicata. Sì. Bella approfondita. Esattamente. C'è ancora posto per partecipare, dato che il viaggio a Friburgo è previsto dal 3 al 5 marzo? Allora, questo non lo so, so che i posti erano pochi e sono state informate tutte le aziende ovviamente della metalmeccanica della provincia di Padova, e bisognerebbe sentire l'Unione Artigiani, ecco, che chiamiamo, perché quindi, se ci sono posti sicuramente volentieri chi si unisce è sempre gradito anche. Certo, allora cerchiamo informazioni presso l'UPA per il viaggio. Nei vari uffici UPA abbiamo tutte le informazioni, ecco, dal venerdì 3 marzo fino a domenica 5 marzo. Cambiamo argomento e parliamo invece l'Unione Provinciale Artigiani di Padova a MEXPE. Che cos'è MEXPE? Allora, MEXPE è una delle fiere più importanti per l'industria manifatturiera. Non è il primo anno in cui Unione Provinciale Artigiani partecipa a MEXPE, ma è il secondo anno che vi partecipa come villaggio confartigianato. Quindi praticamente viene presentata una collettiva, più aziende insieme che si uniscono per partecipare assieme alla fiera. Questo comporta ovviamente una cooperazione sia tra le aziende ma anche tra le associazioni provinciali. Verrà fatta questa fiera a Parma dal 23 al 25 marzo. Si tratta praticamente di un punto d'incontro come fiera tra la tecnologia per produrre tutte le filiere industriali, quindi a partire da materiali, macchine, lavorazioni, tutto quello che può essere metalmeccanico, insomma, e che riguarda anche i nostri piccoli artigiani. E MEXPE, come tutti gli altri anni, viene realizzata grazie anche al contributo di EBAV, che ci aiuta a partecipare. Praticamente nell'area espositiva, oltre a partecipare insieme, verrà fatta sempre un'area comune in cui ci saranno diversissimi eventi molto importanti. Questi eventi parlano soprattutto di formazione e di innovazione.

silenzi anche dei tuoi piedi stanchi di carne, di senso, ragione, sentimento di te. Ma cosa c'è da capire? Mi fai bene. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ancora insieme con A Regola d'Arte stiamo colloquiando con la vicepresidente del sistema di categoria Officine Meccaniche, Laura Rosa, e parliamo adesso di un altro grande appuntamento che senz'altro è interessante, perché Confartigianato Padova andrà ad Hannover. Già, dopo tanto tempo in cui ne parliamo, abbiamo deciso quest'anno di organizzare una visita alla fiera di Hannover, una fiera che è importantissima ovviamente per noi del settore della metalmeccanica e che si svolgerà dal 24 al 28 di aprile. Cosa succederà? Grazie a Confartigianato Veneto e quindi alle varie province di Padova, Treviso e Vicenza è stata organizzata questa visita per una decina di imprese che visiteranno la fiera, quindi qui a fine aprile, e incontreranno anche i vertici della fiera. Questo perché? Perché oltre a visitare e incuriosirsi su quello che c'è nella fiera, la nostra idea è di avviare un dialogo per una collaborazione in modo anche da poter organizzare magari possibilmente una collettiva anche lì oltre che a Parma e quindi partecipare a questa fiera internazionale. E una volta in fiera conosceremo anche le varie istituzioni locali, visiteremo le loro mostre collettive e quindi degli addetti dei lavori ci spiegheranno come funziona e come si svolgono i lavori nella fiera. Questo per noi è importante sia perché ci dà la possibilità di conoscere una fiera internazionale a cui noi non abbiamo ancora partecipato, molti di noi soprattutto non hanno ancora partecipato, ma anche per poter avere poi delle collaborazioni future. Certo, anche perché immagino si possono fare molti contatti anche con altre aziende, collaborazioni possono nascere. Sì. La cosa importante è che noi siamo tutte aziende abbastanza piccole, gli artigiani non sono grosse industrie, quindi partecipare a una fiera internazionale a volte diventa difficile, un po' spaventa. Uh-huh. Avere una collettiva e avere già dei rapporti di collaborazione con chi poi ci ospiterà diventa tutto molto più semplice per tutti, insomma. Certo, penso anche al problema proprio della lingua, insomma, riuscire ad avere qualcuno che parla per noi e che ci rappresenta, no? Trovare quello, trovare i trasporti, organizzarsi direttamente da Hannover, sono tutte cose che ovviamente se una persona, un'azienda vuole partecipare a una fiera deve mettere in conto. Ecco, ma quando si parla di metalmeccanica, settore metalmeccanico, giusto per far capire anche ai nostri ascoltatori che magari non conoscono, di che cosa parliamo? Parliamo di tutta una serie di aziende che si occupano della lavorazione e della trasformazione di materiale, di solito ferroso, ma non solo, di tutto quello che è meccanico, che fa muovere le cose, macchinari, tutto quello che le può venire in mente, qualcosa di meccanico c'è. Quindi si parte da qualsiasi settore, dal settore agricolo, settore delle macchine per il movimento terra, per dirle, settore magari anche di parchi divertimenti, penso a quello che facciamo noi anche in azienda, linee magari di aziende grosse, quindi nuove linee produttive, tutto quello che è anche automazione, insomma. Certo, beh, allora anche questa sarà una bella cosa, avremo modo di riparlarne sicuramente. Dal 24 al 28 aprile la fiera ad Hannover, per questa bella possibilità che vedrà molte aziende del Padovano, di Treviso e di Vicenza insieme a partecipare alla fiera di Hannover. Grazie quindi a Laura Rosa, vicepresidente del sistema di categoria Officine Meccaniche dell'UPA, per essere stata con noi. Grazie a voi per la possibilità. Prima di salutarci parliamo di una cosa che l'UPA promuove, l'assistenza che l'UPA fa per far pagare meno premio INAIL alle aziende che hanno investito in sicurezza. Parliamo quindi del bando OT24. L'INAIL infatti premia anche quest'anno con lo sconto denominato oscillazione per prevenzione le aziende operative da almeno un biennio che hanno eseguito nel corso del 2016 interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia. In particolare, possono usufruire della riduzione del premio INAIL tutte le aziende che sono in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa, che sono in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro nell'anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione. Per ottenere la riduzione, le aziende devono presentare apposita istanza fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definite a tal fine dall'INAIL. Le domande di riduzione, modulo OT24, dovranno essere presentate dalle aziende che hanno attuato interventi di miglioramento oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalla normativa, compilando il modello che riporta una serie di possibili interventi migliorativi con relativi punteggi attribuiti, e dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio 2017. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Per le verifiche tramite questionario di autovalutazione della sussistenza delle condizioni minime per poter richiedere la riduzione del tasso, potete rivolgervi all'ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Padova, al signor Sergio Sadocco, telefono 0429 786111. Altre informazioni le trovate nel sito upa.padova.it. E anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima settimana. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.